Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci qua, buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Lo avete sentito nel giornale radio, era inevitabile che in apertura di settimana anche noi, visto quello che sta accadendo stamattina sulle borse, ci occupassimo della cronaca di questa giornata che ci appare piuttosto difficile per i mercati finanziari europei, e attendiamo l'apertura di Wall Street oggi. Vedremo la reazione anche del mercato americano rispetto alle notizie che dagli Stati Uniti arrivano. C'è un'intesa di massima sul maxi piano di salvataggio da 700 miliardi di dollari predisposto dall'amministrazione Bush, che ha avuto qualche difficoltà nel passaggio al Congresso. C'è però, dicevamo, un'intesa di massima su questo accordo che prevederà un via libera ad un primo pacchetto di aiuti al sistema bancario da 250 miliardi di dollari. Insomma, visto il tentennamento dei partiti in Congresso, ci si aspettava questa mattina una partenza difficile per la borsa europea, però probabilmente non ci si aspettavano le notizie negative che invece proprio riguardano alcuni colossi bancari europei che sono arrivate nel fine settimana. Avevamo già avuto un preavviso rispetto a queste notizie venerdì scorso, quando abbiamo parlato nel corso di tutta la giornata delle difficoltà enormi finanziarie del colosso belga olandese Fortis. Nel fine settimana è arrivata la notizia della nazionalizzazione parziale di questo gruppo bancario, è arrivata poi la notizia della nazionalizzazione decisa dal governo britannico per l'altro colosso dei mutui inglese Bradford & Bingley, è arrivata dalla Germania la notizia di difficoltà di un colosso dei mutui, dei prestiti del settore immobiliare Hypo Real Estate, e insomma tutto questo si traduce stamattina in una forte fibrillazione da parte degli operatori, si traduce in un calo del listino di Parigi del 3%, Francoforte sta perdendo il 2,89%, Londra il 2,75%, Milano sta perdendo sull'S&P MIB il 2,7%. Naturalmente il timore è che le difficoltà finanziarie che hanno messo in ginocchio i principali gruppi bancari americani si propaghino anche all'Europa. È chiaro che il contagio è già avvenuto, lo vediamo tutti i giorni sui mercati, ma a questo punto ci interroghiamo in maniera molto più importante sullo stato di salute delle banche europee. È vero che, come dice qualcuno, come qualcuno ha detto il fine settimana scorsa, addirittura le banche europee si trovano in una situazione più pesante rispetto a quelle americane. Speriamo di no, speriamo che tutto questo sia solamente un'occasione per fare un po' di pulizia e di bilancio, e anche per consentire ai gestori di riposizionare i propri portafogli. Ma insomma, noi stamattina abbiamo messo in campo un po' di esperti, intanto per raccontarci, rispetto a tutte le zone interessate a questi movimenti di questa mattina, quello che sta accadendo. Quindi sentiremo i corrispondenti delle Sole 24 Ore da Londra, da Bruxelles, da Francoforte e da Parigi, per sentire cosa accade in queste ore. E poi abbiamo ai nostri microfoni stamattina Giulio Baresani Varini, direttore investimenti di Banca MB, che ci spiegherà invece questa reazione molto consistente anche a Piazza Affari di questi cali di questa mattina, che ovviamente si concentrano sui titoli bancari. E poi Alfonso Scarano, analista finanziario indipendente, socio AIF dell'Associazione Italiana appunto Analisti Finanziari, quindi punti di vista differenti rispetto a questo tema di oggi, che sicuramente ci aiuteranno a capire un po' di più rispetto a questa crisi. Ovviamente, se vorrete, potrete intervenire chiamandoci all'800 24 0024 oppure scrivendoci al 349 238 6666. Allora, io direi di andare subito, visto che la persona sicuramente più impegnata in questa giornata, senza nulla togliere ovviamente agli altri colleghi, a Bruxelles, dove c'è il corrispondente del Sole 24 Ore, Enrico Brivio. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Allora, andiamo con ordine. Qui abbiamo oggi da raccontare intanto le modalità con cui è avvenuta la parziale nazionalizzazione di Fortis, ma a quanto pare il contagio da quelle parti si sta facendo sentire anche sulla belga Dexia, che oggi ha convocato il Consiglio di amministrazione alle 18. Insomma, anche qua ci sarebbero problemi di liquidità enormi smentiti dal gruppo, ma a questo punto il mercato non crede più a nulla. Partiamo con ordine, la situazione di Fortis, prima banca belga in tracollo, Enrico. Sì, la situazione si è fatta molto difficile durante il weekend e ha comportato un intervento ordinato del governo belga, di quello lussemburghese e di quello olandese, che hanno ripreso il 49% delle differenti filiali di Fortis attuando una iniezione di capitale consistente. Ora il problema è Enrico, guarda, è proprio un peccato che non riusciamo a sentirti bene. Adesso tentiamo di ripristinare il collegamento, però siccome è proprio il tema di giornata, la vicenda di Fortis, adesso lo recuperiamo immediatamente. Tra l'altro forse Enrico è anche in procinto nelle prossime ore di spostarsi, credo, non so se sia stato cambiato il suo piano, su Amsterdam, dove oggi si riunisce il Financial Stability Forum sotto la presidenza del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che peraltro ha anticipato ad oggi le sue analisi sulla situazione dei mercati finanziari, in programma invece per domani. Adesso recuperiamo Brivio, oppure vado a Londra da Marco Niada per farci raccontare invece la nazionalizzazione di Bradford e Bingley. Riusciamo con Brivio? Enrico, eccoci di nuovo. Sì, dicevo, questo intervento coordinato del governo belga con quello olandese e lussemburghese per effettuare questa robusta iniezione di capitale acquisendo il 49% delle diverse filiali di Fortis. Questo intervento però non è bastato a rassicurare i mercati del tutto, perché dopo un balzo del 14% il titolo Fortis poi si è rinabissato di un altro 14% oggi, e quindi ancora permane nervosismo sui mercati. Un nervosismo aumentato dal fatto che ora Dexia è nell'occhio del ciclone. Anche in questo caso il ministro delle finanze Didier Reynders ha detto che lo Stato belga è pronto a intervenire, così come sul fronte francese, perché sappiamo che Dexia è una banca con una forte partecipazione francese, è della Cassa Depositi francese, e il ministro Lagarde ha affermato di essere pronto a intervenire. Quindi, diciamo, un dato interessante forse è che in questi casi si vede come i governi siano pronti ad agire in modo coordinato, e qui forse c'è la cifra più interessante di questa crisi, cioè di riuscire a verificare se veramente esiste un coordinamento tra i governi europei, se esiste un'Europa anche finanziaria in grado di dare una risposta coordinata a questa crisi che prende sempre più la forma di una crisi sistemica. E infatti, anche perché molti osservatori negli ultimi giorni, Enrico, hanno auspicato una sorta di predisposizione di un piano di salvataggio, di sostegno del sistema bancario europeo alla stregua di quello americano. Ma secondo te, data comunque la struttura evidentemente dei due continenti dal punto di vista di governo molto diversa, secondo te è possibile che da Bruxelles possa a partire un'azione concertata di questo tipo? Come potrebbe partire, sotto le insegne della Banca Centrale Europea? Cosa potrebbe accadere? Ma non è semplice, dirlo. Anche ad Amsterdam oggi una riunione del Financial Stability Forum presieduto da Draghi, che è l'organo del G8 che si occupa di questi problemi. Anche da lì potrebbe arrivare un segnale importante. Per ora direi che Bruxelles non ha ancora le armi affilate, nel senso che c'è un approccio di antitrust di valutare gli aiuti di Stato, ma qualora si entrasse veramente in una situazione di crisi sistemica qualcosa andrebbe rivisto indubbiamente, perché se ci si trovasse in tempi di guerra le regole di pace non potrebbero essere più applicate in modo così puntuale e rigoroso come prima. Però per il momento Bruxelles si limita ad affermare che analizzerà gli aiuti di Stato secondo le regole vigenti. Grazie intanto ad Enrico Brivio, lo lascio perché è per lui una giornata particolarmente impegnativa. Intanto saluto i nostri altri ospiti che ci hanno raggiunto, alcuni di loro rimarranno con noi per tutta la puntata. Giulio Baresani Varini, responsabile investimenti di Banca MB, benvenuto. Buongiorno. Benvenuto anche ad Alfonso Scarano, socio AIAF, Associazione Italiana degli Analisti Finanziari. Scarano, benvenuto anche a lei. Bene, grazie. E andiamo invece a Londra da Marco Niada. Marco, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Se il buongiorno si vede dal mattino, insomma, stamattina il buongiorno è stato sonoramente un brusco risveglio. Insomma, allora andiamo invece all'operazione di nazionalizzazione in vista per Bradford & Bingley. È il terzo operatore del credito immobiliare britannico ad entrare in crisi dopo Northern Rock ed HBOS. Qual è la situazione? Beh, la situazione è semplice. Con Bradford & Bingley se ne va l'ultima banca di credito ipotecario che era quotata in borsa. Era una società mutua, come tante lo erano, che per far più soldi si erano demutualizzate, erano quotate in borsa e poi non hanno, e chiaramente hanno cercato mezzi freschi e poi hanno cercato sempre più mercato, denaro invece che dai depositanti, sul mercato all'ingrosso, wholesale, e questa con la tetta del credito non sono più rimaste in piedi. Quindi Bradford & Bingley, che in più era anche molto attiva nel settore buy to let, cioè diciamo coloro che comprano case, che hanno già una casa e comprano con il semplice obiettivo di affittarle e farci dei soldi, con l'aumento dei tassi di interesse e la caduta dei prezzi delle case, Bradford & Bingley si è trovata con un'esposizione che era ormai insostenibile. È stata quindi nazionalizzata. Diciamo, l'operazione è di questo genere. 20 miliardi di depositi, gli sportelli, 2700 dipendenti vengono presi dalla banca AB National, che è parte del gruppo Santander spagnolo. Che sta facendo dei grandi acquisti in totale saldo in questo periodo. Si è spazzolato la Gran Bretagna, si è preso AB National nel 2004, Alliance e Leicester, che era un'altra di queste mutualizzate, demutualizzate, che ci si dimentica, se l'è comprata 4 mesi fa perché stava per saltare, e adesso per 600 milioni di sterline si prende bene o male una banca che ha attività per 63 miliardi di euro e depositi per 30 miliardi di euro, sono 20 miliardi di sterline. Tutti invece i mutui, molti dei quali dubbi, vengono nazionalizzati, però è una nazionalizzazione morbida, in questo senso che a mano che vanno a scadenza, e qui sono a breve termine di solito i mutui, quindi tra 5 e 8 anni i mutui vengono ripagati allo Stato. Là dove ci sarà una differenza alla fine di tutte le scadenze, quella lo Stato ha giurato verrà sostenuta dal sistema bancario britannico. Dato che il sistema bancario britannico non è in buone condizioni, verrà sostenuto lungo il tempo. Quindi cosa fanno i contribuenti? I contribuenti garantiscono, diciamo, una specie di sostegno ponte durante tutto questo periodo. Ecco. Poi si parla anche sempre più qua di creare una bad bank come in America, anche perché ormai è nata, perché tra Northern Rock e tutte le diciamo i crediti tossici o comunque poco esigibili di Bradford & Bingley, un cestone in cui sta iniziando a finire la spazzatura è stato creato. Adesso da lì a vedere di andare oltre bisogna un po' vedere. Il governatore della Banca d'Inghilterra è molto ortodosso e ha sempre tenuto il pedale sul freno, anche creando, diciamo, qualche danno, perché molti l'hanno criticato, quindi però non sarebbe molto dell'avviso. Il governo vuol far vedere che segue le regole di mercato, cioè, però gente come l'economista di Goldman Sachs, Jim O'Neill, che in un articolo sul Daily Telegraph di oggi ha detto che qui devono fare molto velocemente una bad bank, perché le banche britanniche ormai non si prestano più soldi, la situazione sta diventando estremamente delicata. C'è poi un ultimo punto che, quando parlavi prima con Enrico Brivio, che è molto importante, che adesso che è passato il piano americano, cosa succede? Succede che le banche europee che hanno attività in America, per far parte del piano americano per quanto riguarda la loro attività, dovranno dire che crediti dubbi hanno. E quindi tutta la bella storia tra modello anglosassone e modello europeo verrà messa a dura prova, perché scopriremo che il modello europeo non è tanto diverso da quello anglosassone. Infatti, come molti dicono. Che il nostro analista, il nostro gestore, che sentiremo fra poco per commentare anche queste ripercussioni su Piazza Affari rispetto a quello che sta accadendo stamattina, credo, probabilmente, insomma, la mia percezione del tutto personale, che potranno dirci la stessa cosa ancora in Europa su quello che si ha in portafoglio. Non è stata detta esattamente tutta la verità. Basta vedere qua quanto stanno scendendo i titoli quest'oggi. Ringrazio Marco Niada, completo questo primo round di giro fra i corrispondenti del Sole 24 Ore. Più tardi sentiremo anche Francoforte con Beda Romano, ma intanto da Parigi saluto Attilio Geroni. Attilio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Sarkozy pronto a riunire domani all'Eliseo i dirigenti delle principali banche e gruppi assicurativi francesi? Sì, domani alle 10:30 l'Eliseo ha convocato questo vertice, che possiamo chiamarlo vertice di crisi, di emergenza, dove ci saranno non solo i dirigenti delle grandi banche, ma anche, oltre al Presidente stesso, al Primo Ministro, il Ministro delle Finanze, il Governatore della Banca Centrale Francese, Christian Noyer, e quindi per conoscere com'è la situazione delle banche francesi, perché dopo quello che è successo nel fine settimana in Belgio nessuno può dirsi al riparo dal contagio. Anche banche che sembrano solide come le grandi banche francesi, ecco, per evitare il rischio di contagio, per prevenire, ecco, una cosa che non è mai stata fatta, è quello di prevenire eventuali crolli. Ci sono delle situazioni di debolezza anche in Francia. Da un lato abbiamo BNP Paribas, che è ritenuta da tutti la banca che è meglio, una delle banche che in Europa sta tenendo meglio, sta resistendo meglio alla crisi. E si è fatto anche il suo nome nel fine settimana per l'eventuale acquisizione di asset di Fortis, per cui anche questo dà un po' la misura della salute, certo. Sì, loro sono stati fino all'ultimo sul potenziale acquisto, ma ovviamente siccome è una banca opportunista ma nello stesso tempo molto prudente, ecco, non ha avuto le garanzie necessarie e sufficienti da parte dello Stato belga, e quindi alla fine si è tirata indietro, non ha potuto vedere bene che cosa c'era dentro il portafoglio di questa banca. Quindi ecco, poi un'altra situazione che secondo me va tenuta sotto controllo è quella di Natixis. Natixis è la banca di investimento delle casse di risparmio delle banche popolari, ed è una banca forse francese che ha dato più problemi, che ha dato qualche preoccupazione, ha portato a compimento la settimana scorsa una faticosa ricapitalizzazione, però ecco, forse è l'anello debole della catena, mi pare insomma che oggi perda parecchio in borsa, quindi potrebbe essere questo, mentre le altre banche più o meno dovrebbero cavarsela. Però ripeto, il fatto che ci sia questa riunione, il presidente Sarkozy poi ha voglia di prendere delle iniziative concrete, quindi ci sarà una consultazione e probabilmente nei giorni, nelle settimane che seguono ci saranno delle iniziative. Vuole prendere iniziative concrete che potrebbero essere alla stregua di quelle britanniche, di quella belga, olandese, tipo non so, costruire, come anticipava Marco Niada, delle bad society, delle bad company, dove far confluire anche in questo caso i titoli tossici in circolazione, quindi liberare le banche dalla parte illiquida dei propri portafogli? Qual è la percezione? La percezione è che anche qui stiano pensando appunto a creare una struttura del genere, la bad bank, ecco, sopra, però intendono farlo abbastanza rapidamente per prevenire, ecco, perché quando crei una bad bank e ci sono già tutta una serie di cose, di fallimenti, di nazionalizzazione che sono già andate avanti, è un po' una misura tampone. Crearla prima che si manifesti fallimento, qualche fallimento, qualche nazionalizzazione, insomma è una cosa diversa. Comunque serve a rassicurare il risparmiatore. Ricordiamo che Sarkozy giovedì scorso, nel suo discorso di Tolone, ha detto che non lascerà che il risparmiatore francese perda un singolo euro da questa vicenda, da questa crisi finanziaria. Grazie anche ad Attilio Geroni da Parigi. Abbiamo dato in tempo reale, insomma, la sensazione sui mercati su quello che sta accadendo questa mattina, una giornata di forte tensione per la borsa. Insomma, abbiamo raccontato la cronaca delle motivazioni che stanno provocando queste vendite molto sostenute sui mercati. Insomma, speriamo che tutto questo sia solamente anche una sorta di anticipazione di qualcosa di bello che potrà avvenire in futuro. Che cosa intendo con questo? Insomma, quando ci sono cali così vistosi, le pulizie che vengono fatte sono anche occasioni di investimento, di acquisto per chi invece gode magari di uno stato di salute finanziario decente, e quindi magari da questi temi partiremo poi nella seconda parte di Salvadanaio con i nostri commenti. Però magari ho ancora un minuto di tempo per cominciare a sentire i nostri altri due ospiti. Giulio Baresani Varini, buongiorno. Beh, c'è molta preoccupazione fra molti ascoltatori che ci stanno scrivendo su questa reazione di borsa di Unicredit, adesso meno 5,70, il titolo è arrivato a perdere 6,5 punti, insomma una normale reazione alle notizie di questa mattina, o insomma Unicredit forse non ha ancora detto tutto quello che c'è da dire rispetto al suo portafoglio di investimento? Beh, di sabato, proprio adesso alle 24 ore, l'anticipazione che creano un SIV, cioè un fondo separato, che non gli tolga patrimonio ma che gli liberi capitale. Tendenzialmente questo non è così ben visto dai mercati. L'altro aspetto importante è che oggi c'è crisi anche in Germania, IPO Real sì, ne parleremo tra poco, 60, sì. La Commerzbank è coinvolta, meno 17, e quindi la ex IPO Ferenc controllata da Unicredit non può certo far bene, in più è la banca più internazionalizzata e quindi un risente. Po' di disagio. Però ne risente secondo me in linea con le altre banche europee, cioè non è la situazione come Natixis, Dexia o altre banche locali. Purtroppo in ogni paese c'è una o due banche in difficoltà e ogni governatore centrale, ogni governo sta parlando e sta decidendo per sé, non c'è ancora una logica comune da Stati Uniti d'Europa, che infatti non esiste. Sentiremo poi il caso tedesco, che pure sta suscitando una certa preoccupazione, ma noi stiamo commentando questa situazione, per la verità uno degli due ospiti non l'ho ancora sentito, con Giulio Baresani Varini, direttore investimenti di Banca MB, e Alfonso Scarano, analista finanziario indipendente. Scarano, eccoci a lei allora. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, noi questa mattina in realtà io avevo invitato Alfonso Scarano perché avevamo in programma di parlare di un altro argomento a Salvadanaio. Volevamo raccontarvi come i comuni molto spesso si finanziano per costruire strade, per portare avanti appunto i propri progetti attraverso l'emissione di titoli obbligazionari. I BOC, per esempio, sono gli strumenti più diffusi, i buoni obbligazionari dei comuni, per farci spiegare appunto come vengono confezionati questi prodotti e se c'è il rischio che finiscano nelle mani dei comuni risparmiatori, dato che anche recentemente abbiamo raccontato non solo dei tracolli di molte borse e di molte banche, ma anche di molti enti locali italiani. E ho chiesto a Scarano: noi stiamo cambiando argomento, è disponibile a rimanere con noi? E lui mi ha detto: ma siete proprio sicuri? Non rischiamo di dare stamattina un messaggio sbagliato? Perché, Scarano, non avremmo dovuto secondo lei raccontare di questa giornata di borsa? Ma secondo me è una giornata molto interessante, è come se il mercato avesse un'eruzione cutanea per una grossa indigestione, e secondo me gli osservatori, più che andare a vedere, ovviamente per professione uno deve seguire i titoli in tempo reale eccetera, però è l'occasione di fare un ragionamento un po' più ampio, cioè da dove, quali sono le cause di questa crisi. Allora, secondo me le cause di questa crisi sono specificamente imputabili a dei prodotti finanziari esageratamente complessi, in cui c'è difficoltà. Si sente bene? O c'è la sentiamo benissimo? Sì, io sento effettivamente una piccola interferenza, però la sentiamo perfettamente, Scarano. Forse dà più fastidio a lei che a noi, sì. Allora proseguo. Questi prodotti finanziari complessi in cui si sono trovati in difficoltà le stesse banche, le stesse agenzie di rating a valutare. L'occasione è anche guardare la struttura. Ecco, io adesso parlo a titolo personale, però in AIAF, presso l'Associazione degli Analisti Finanziari, da tempo abbiamo dei tavoli di lavoro di persone che sono piuttosto preoccupate dell'andamento dei mercati. Ad esempio, la MiFID, che viene spacciata come trasparenza, eccetera, non mi sembra che abbia colto il segno nel momento in cui valida una struttura di mercato borsistico privatizzato, in cui le banche possono anche crearsi dei mercati interni dove poter matchare gli ordini. Volevo solamente chiederle magari di tradurre in termini più semplici quello che sta dicendo i nostri ascoltatori, partendo dalla MiFID, ricordando che è una direttiva europea che è stata recepita anche dal nostro ordinamento e che dovrebbe regolamentare in maniera precisa, la dico in maniera molto semplificata, i rapporti fra risparmiatori, clienti degli intermediari finanziari e gli stessi intermediari, no? Assolutamente, ecco, tutti gli ascoltatori avranno avuto esperienza di essere dovuti passare presso lo sportello bancario e firmare numerosissimi fogli piuttosto complicati in cui veniva dato un profilo di rischio per ciascuno. Ecco, questo è uno degli aspetti della MiFID, che in realtà non mi sembra che crei trasparenza, quanto piuttosto mascheri un problema di fondo, cioè la comprensione dell'effettivo rischio insito in un prodotto. Non penso che chi ha investito nei prodotti strutturati, nell'index linked, eccetera, si sia esattamente reso conto di dettagli, che non sono dettagli per gli esperti, come un pezzettino di assicurazione che se fallisce l'assicuratore mette in difficoltà lo strumento finanziario. Quindi, per sintetizzare, Scarano, leggo le sue considerazioni a quello che sta accadendo questa mattina. Mi pare di capire che a causa di tutto questo lei forse non vede di buon occhio questi interventi governativi che comunque tentano di riportare la calma sul mercato, salvano le banche tentando anche di salvare ovviamente l'emotività dei piccoli risparmiatori, dei piccoli correntisti, delle banche. Non le vede di buon occhio proprio a causa di questa sofisticazione finanziaria? Chi si è reso colpevole di un eccesso di sofisticazione dovrebbe pagare in maniera sonora e fallire? No, assolutamente. Sono troppo drastica? Voglio essere più preciso. Non mi piacciono questi salvataggi indifferenziati. C'è un problema di controllo. In un enorme buco non controllato può accadere di tutto. Mi piacerebbe fare dei controlli su questi, che le istituzioni preposte possano controllare gli effettivi default e cosa sia, e ci sia effettivamente un'analisi dei buchi, tra virgolette. È chiaro che a una mancanza di liquidità bisogna intervenire con la liquidità. La liquidità è assolutamente necessaria, ma non è un problema, secondo me, fornire liquidità al mercato. Il problema invece di cogliere o di trasformare questo stress di mercato in un'ennesima concentrazione del mercato, questo è un aspetto che non le piace. È un aspetto che non mi piace. Tra l'altro, guardi, se può esserle così, insomma, di sostegno, tra virgolette, ci sono molti ascoltatori che stanno dando delle indicazioni simili. Voi prendeteci, scrive Gabriele al 349-238-6666, tutte queste acquisizioni sotto gamba, così si creano i monopoli. I monopoli sono l'anticamera delle dittature, molto rigido, Gabriele, ma insomma, forse anche su questi aspetti vale la pena continuare a soffermarsi. Giro le sue considerazioni a Giulio Baresani Varini, che è un operatore di mercato, lo guarda tutto il giorno e sceglie anche delle occasioni di investimento e probabilmente anche approfittando di giornate come questa. Baresani Varini, insomma, cosa c'è di buono in una seduta così pessima a vederla ovviamente da fuori? Beh, di buono nulla, nel senso che vorremmo non essere nelle condizioni di approfittare di queste discese. Peraltro qualsiasi investitore dopo 14 mesi di discesa del mercato ogni tanto l'ha tentata e non sempre è andata bene. Io per primo ho provato a comprare dell'Unicredito venerdì sperando nell'approvazione di questo piano e invece oggi mi dice contro. Direi che la situazione vede i mercati europei entrare in una fase un po' di guerra, perché l'euro scende notevolmente ma per debolezze sue, e si rafforza di conseguenza il dollaro, che almeno un mega piano ce l'ha come economia. Votato o da votare, raccolta alla bene meglio con ex Goldman Sachs a capo degli organi di controllo, quindi con conflitti di interesse, con le elezioni di mezzo, ma qualcosa hanno fatto. In Europa ogni banchiere centrale, ogni governo cerca di vedere quali sono le proprie banche in difficoltà e spera che il paese vicino, come dire, sia un po' messo peggio. In realtà, a parte le due grosse spagnole, uno o due francesi, una forse tedesca e quelle un po' italiane con un po' più debolezza di Unicredito perché è la più internazionalizzata, tutte le altre o si erano americanizzate troppo, parlo di UBS, di Deutsche, di altre, o hanno mercati immobiliari locali, e penso alle piccole spagnole, alle irlandesi o alle islandesi, a quelle inglesi, in una grave difficoltà, per cui finché non c'è una manovra concertata delle banche centrali, anche dei governi, quindi del G7, dello Stability Forum, decidano come, ma finché non ricreano questa fiducia, magari nazionalizzando quelle più in difficoltà, quindi non solo prendendogli i crediti. Ricordo che con l'IRI negli anni 30 crearono le tre banche di interesse nazionale, Credito Italiano, Banca di Roma e Comit, crearono le BNL e dopo anni, forse non all'italiana dove quello che è temporaneo diventa definitivo, le rivendono e magari ci guadagnano anche qualcosa. Io, Baresani, se la devo... si interviene così, la vedo veramente dura. Beh, chissà dura. Che oggi ad Amsterdam, tra oggi e domani, è Financial Stability Forum, non si prenda coscienza di una necessità di questo tipo. Io saluto anche, ci ha raggiunto a poco tempo per restare con noi, Beda Romano, corrispondente per Il Sole 24 Ore da Francoforte. Beda, buongiorno. Allora, una giornata disastrosa per Hypo Real Estate, l'istituto tedesco specializzato in mutui, sta perdendo, credo, il 60%. Ci fai il punto della situazione? Beh sì, questa è una banca importante in Italia, soprattutto in Germania, soprattutto nel settore immobiliare. Sta perdendo il 60% perché è in gravi difficoltà finanziarie. Un gruppo di banche pubbliche e private hanno dato una linea di credito a questo istituto di credito per circa 35 miliardi di euro, linea di credito garantita peraltro dal governo federale. Proprio pochi minuti fa il portavoce del Ministero delle Finanze ha precisato che non si tratta di una specializzazione e che l'obiettivo dell'establishment tedesco è quello di permettere a questa banca di autoridursi, ossia di vendere attivi finanziari con maggiore libertà. Questo è il primo punto ed è certamente l'aspetto cruciale di questa mattina, ma tutti i titoli bancari sono in difficoltà alla borsa di Francoforte. Anche oggi Commerzbank mi sembra stia perdendo qualcosa come il 25%. Sì, Commerzbank sta perdendo circa il 20%, la banca è uscita allo scoperto tramite un suo portavoce spiegando che non ha assolutamente problemi di liquidità. Altri titoli vanno male, come quello di Allianz che perde il 5%, e poi Deutsche Bank che in questo momento perde l'8%. Insomma, una brutta giornata ovunque. Grazie a Beda Romano, corrispondente da Francoforte del Sole 24. Giuliano D'Aleco, benvenuto. Buongiorno signore. Buongiorno. Schematizzando al massimo. Bravo. I governi cercano di creare questi fondi in cui far affluire tutti i crediti inesigibili delle banche. Eh sì, e fin qui ci siamo. E quindi poi i creditori pagheranno a questo fondo, quindi al governo. La mia domanda è questa: ma il sistema prevede che le banche, adesso ripulite di tutto, continueranno a fare utili? Mi piacerebbe sapere se c'è almeno un obbligo delle banche, quando fanno questi utili, di versarli a questo fondo. Grazie Giuliano. Sentiamo se ci possono spiegare qualcosa di più rispetto a questo. Ovviamente possiamo parlare per il grande piano di salvataggio, non mi piace chiamarlo salvataggio, di sostegno al sistema bancario americano. Alfonso Scarano, credo che tra l'altro la schermaglia tra repubblicani e democratici in congresso forse si sia concentrata anche su questi punti, no? Vabbè, il governo fa questo intervento, ma insomma non è che rileviamo solamente questi asset tossici per poi fare in modo che le banche possano riprendere a fare la loro attività, macinare utili e tenerseli, no? Ma a me pare che sia emerso un dibattito interno proprio su un po' più complessivo, cioè i manager che hanno gestito queste banche hanno guadagnato moltissimo, ma miliardi di dollari, cioè e sono stati responsabili di una finanza diciamo impostata su dei prodotti finanziari molto complessi. Questo ha lievitato il rischio, perché nell'impacchettamento dei diversi prodotti questi è stato seminato ovunque, ne abbiamo avuto la prova concreta addirittura non capendo i livelli di rischio e osservando sul mercato interbancario uno spread sui tassi, cioè una differenza rispetto ai tassi ufficiali sempre più elevata, e questo chiaro indice di come le banche si guardassero in cagnesco. Devo dire che chi è intervenuto ha molto ragione, cioè noi ripuliamo, socializziamo le perdite e privatizziamo i profitti. Privatizziamo i profitti. Mi sembra un modello non accettabile a livello complessivo. Sostengo piuttosto che bisogna fare una riflessione più complessiva degli ultimi 10 anni di finanza. Ma adesso in questo momento, secondo lei, per sostenere questa fase difficilissima di mercato c'erano delle alternative rispetto al piano Paulson o rispetto alle nazionalizzazioni che stiamo vedendo in Europa? Sinceramente la crisi che sia necessario un ripensamento nell'agosto del 2007. C'è stato infinite riunioni dei banchieri centrali, numerosi interventi, e noi arriviamo dopo un anno e passa con una crisi che sembra un po' più profonda e un po' più larga. Allora, chi ha la responsabilità di gestire la liquidità nel sistema si assume la responsabilità di come ha gestito questo anno. È chiaro che in emergenza un risparmiatore può essere veramente traumatizzato dai listini che perdono violentemente, i gestori sono molto stressati, la rete di vendita altrettanto compatate. Io però sinceramente l'occasione di una giornata come questa dovrebbe invitare tutti gli economisti e i responsabili delle banche a comprendere cosa è accaduto. Ecco, mi sembra troppo semplice privatizzare i guadagni e socializzare le perdite. Enza da Venezia, buongiorno, poi preparerei anche Baresani, Marini se vuole intervenire sui punti indicati da Scarano. Enza, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamata. Io sono cliente della più grossa banca italiana che voi avete nominato esplicitamente spesso durante questa trasmissione, sì. E che mi pare versi in una situazione abbastanza critica. Meno, ma per le quotazioni in borsa questa mattina, Enza, non ci sono altri indicatori? Poi adesso facciamo anche fatica a parlarne a mercati aperti di questa situazione, certo, dobbiamo muoverci con allora, molta delicatezza. In termini più generali, chiederei questo: se una banca qualsiasi va in default, uno che nel suo dossier titoli abbia solo titoli di Stato, va bene, questi titoli di Stato rappresentano un porto sicuro oppure in quanto il rapporto del cliente, il rapporto dell'intestatario è con lo Stato, Enza, oppure no, guardi, questo è uno e l'altro è questo. Cosa succede nel caso di un default di ciò che è nel conto della somma che nel conto corrente, e quale delle due soluzioni allora è meglio? Avere impiegati questi soldi in titoli di Stato esclusivamente, o è meglio tenerli sul conto corrente? Guardi, Enza, lei praticamente ci sta ponendo una domanda che richiederebbe di andare avanti fino alle 14, quindi dovremmo in qualche maniera affrontare la questione da molti punti di vista. Insomma, se una banca crolla, se una banca fallisce, che cosa succede al risparmiatore che ha attivato il conto corrente, magari un conto di deposito per ottenere un rendimento un po' più interessante, oppure un deposito, oppure un conto titoli? Baresani, Varini, allora, senza tornare alla banca di cui stavamo parlando, perché non mi sembra assolutamente di poter dire che siamo in questa situazione, per quello che riguarda il conto corrente, magari se mi aiuta a dare qualche rassicurazione a Enza, se ha un titolo di Stato, ha un impegno con lo Stato italiano e diciamo che la banca in questo caso è stata solo l'intermediatrice, no, della compravendita, non dovrebbe succedere niente. Sì, assolutamente. Insomma, uno ha i suoi titoli di Stato, obbligazioni, azioni, e ha quelli, insomma, sono suoi, sono individuabili, sono sul suo dossier. Nel caso una banca vada in difficoltà, avere ovviamente delle liquidità può essere, come dire, più pericoloso. Peraltro in Italia, insomma, non è mai successo, si è sempre fatto un discorso di sistema dal Banco Napoli allo stesso Banco di Sicilia, e non mi sembra che la banca a cui chiaramente fa riferimento l'ascoltatrice sia in questa situazione. Conta anche vedere l'azione che scende, esatto, un conto, e pensare a una situazione di questo genere. Poi c'è il fondo garanzia delle banche, il fondo tutela dei depositi, esatto, esattamente, che tutela in questo senso, come ha tutelato Washington Mutual, a cui le obbligazioni sono andate a zero, così come è stato per Lehman, e questa è la cosa nuova, perché in passato andavano a zero solo le azioni, come è stato per Bear Stearns o per altre, no? Quindi pagava all'azzardo l'azionista, ma il creditore no. Ma proprio questo dimostra che è una situazione assolutamente nuova in cui... Infatti è lì che volevo arrivare con la considerazione di Enza. Quello che possiamo concludere oggi in questa puntata, nella quale abbiamo fatto una mera cronaca della mattinata, è questo. Insomma, siamo un po' tutti quanti adesso nell'onda dell'incertezza, e quindi è normale che dal più piccolo investitore al più grande siamo tutti adesso un po' contagiati rispetto a questa bufera finanziaria. Baresani, Varini. Sì, è proprio il tenore della telefonata del signora Enza, che ci deve far capire che, rispetto anche a quello che diceva Scarano prima, non siamo di fronte al solito quadro fiammingo con serie di medici che stanno cercando di capire qual è il male e possiamo un domani discutere sulle colpe o sulle cure, ma siamo in un pronto soccorso dove bisogna avere i defibrillatori come nei telefilm degli ospedali di adesso, cioè bisogna fare un pronto intervento che ricrei la fiducia, che riattivi la circolazione, e poi dopo si andranno a vedere gli errori montati negli anni, ma adesso non si può, come dire, occuparsi del particolare mentre la situazione si incancrenisce, e non si può essere concentrati sul farla pagare. Sicuramente se si comprano le banche, gli stati o i fondi o gli enti, o si prende l'oro delle banche centrali, qualsiasi soluzione di guerra per certi aspetti, perché questa è una situazione comunque grave. Un conto è avere le azioni di queste banche, se poi questi mutui vengono pagati la situazione migliora, perché adesso è tutto circolo vizioso, ma domani potrà diventare anche un po' più virtuoso, allora è giusto che questi benefici vadano alla comunità, così come adesso invece sembra che si debbano prendere solo gli oneri, gli aspetti peggiori, gli oneri di questa situazione. Grazie, grazie molto a Giulio Baresani Varini, direttore investimenti di Banca MB, ad Alfonso Scarano, analista finanziario indipendente, socio AIAF, per essere stati con noi, per averci aiutato a capire un po' di più di questa situazione, ma insomma dovremmo farne ancora di strada per entrare sempre di più nel merito di questa gravissima crisi, insomma, che sta spaventando anche un po' tutti, ma noi abbiamo voluto analizzarla anche per fare chiarezza e per cercare di contenere quello che per alcuni è davvero panico. Intanto però, per non saperne leggere né scrivere, le borse sono ancora tutte in calo di circa 3 punti percentuali. Ci torniamo fra un po' a GR Extra Large. Grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Giorgio Matei in assistenza tecnica. Noi torniamo domani, da Deborah Rosciani speriamo. Buona giornata.